Ecco, dobbiamo dire, cari amici, che proprio la vita della beata Rosa da Viterbo è strettamente legata proprio alla storia della sua città, quindi a Viterbo, e anche al periodo storico in cui ella è vissuta, periodo che ha contraddistinto non solo la vita della nostra santa, ma da lì a poco anche di figure come Santa Margherita da Cortona, nel 1300 come Santa Caterina da Siena. Insomma, sono donne piene di fede, fierissime del loro essere cattoliche. E al pari di queste proprio grandi figure di donna, vi è quella discreta, ma grande al tempo stesso, di Santa Rosa, che rappresenta, possiamo dire, l'umile, lumine innalzata al di sopra dei grandi della storia dal Signore, per confonderli. Siamo nel 1233, anno in cui le cronache ci dicono nasce la piccola Rosa in un giorno di primavera. Vi dico subito, sembra strano, un po' anche sorprende la cosa, ma proprio dalla devozione per questa santa nascerà secoli dopo quello che è quel bellissimo movimento popolare che si chiama Azione Cattolica. E poi vedremo in quale modo nasce. Ritorniamo alla nostra Rosa, che nasce purtroppo con una rarissima e grave malformazione fisica che è caratterizzata dalla totale mancanza dello sterno, sostituito dalla natura da un piastrone fibroso. Questa malattia oggi si chiama agenesia totale dello sterno. È una malattia che di solito porta la persona ad una morte precoce entro i primi 3 anni di vita, perché lo scheletro non riesce a sostenere il corpo. Ma la nostra santa avrà, diciamo, la grazia di continuare la sua missione, anche se vedremo, morirà comunque molto giovane. Nasce in una famiglia credente, i suoi genitori sono persone profondamente pie. Il papà si chiama Giovanni, la mamma Caterina, e le condizioni economiche di questi due sposi sono molto modeste. I coniugi vivono coltivando qualche piccolo appezzamento di terreno che da loro da mangiare e di loro proprietà e abitano in una casetta non lontano dalla chiesa di Santa Maria in Poggio. Ancora oggi una buona parte della casa dove è nata Santa Rosa esiste ancora e c'è conservata la sua piccolissima cameretta. E proprio qui lei, ancora bambina, trascorre diversi dei suoi anni dedita alle attività delle piccole dell'epoca, quindi i giochi, i lavori femminili all'interno del focolare e gli insegnamenti della vicina chiesa di San Francesco alla Rocca, che contribuiscono a formare anche il sentimento religioso di gran parte dei viterbesi che in quegli anni vivono una grande devozione, un'ammirazione incredibile per San Francesco d'Assisi. San Francesco praticamente era morto 7 anni prima che nascesse Santa Rosa, quindi era vivissima la sua presenza. E in effetti in quel periodo, oltre alla chiesa dedicata al nostro santo, cioè a Francesco, sorgeva anche il monastero di Santa Maria, detto delle Damianite, con riferimento al primo chiostro che San Francesco preparò per Santa Chiara. Sappiamo poi che dal 1263 saranno chiamate le Clarisse. E proprio a queste Clarisse, al loro monastero, Santa Rosa legherà il suo nome. Pensate a tal punto che le stesse religiose si diranno in seguito Clarisse del monastero di Santa Rosa. Ecco, abbiamo già detto come la storia della città, cioè della città di Viterbo, e la storia di Rosa siano intimamente legate. Ed è quindi necessario presentare il quadro storico che la città vive in quel periodo. Siamo tra il 1235 e il 1240. Sono anni piuttosto turbolenti e la vita della nostra santa si inserisce proprio in quegli anni dove c'è una lunga e aspra lotta tra l'imperatore Federico II di Svevia e il Papa. E proprio in questa lotta anche Viterbo in quegli anni cerca di espandere i suoi confini oltre i Monti Cimini fino al Mar Tirreno. E per questo motivo la città attira l'attenzione sia dell'imperatore tedesco che dei cardinali fedeli al Papa. È una città allora molto importante, se pensiamo che alcuni anni dopo i papi metteranno lì la loro sede per circa 30 anni, quindi si sposteranno da Roma, cui ci saranno, diciamo, c'è il popolo un po' insieme ai nobili e rivolta contro il Papa, e quindi spostano la loro sede a Viterbo. Quindi è una città che ha una grande importanza. E Viterbo nel 1235 sceglie di allearsi con le truppe di Federico II per difendersi da quelle del Papa. E lo stesso imperatore cala, diciamo, in questa città, pronto a muoversi militarmente contro il pontefice a Roma. Divampano però in quel periodo le rappresaglie tra gli stessi abitanti, che come in altre città si dividono in fazione guelfa, fedele al Papa, e ghibellina, fedele all'imperatore, all'interno della quale affluiscono anche gli eretici patarini. Questo era un movimento eretico critico nei confronti della gerarchia ecclesiastica proprio in generale. Dopo qualche anno il conflitto tra Roma e l'impero però si placa, siamo infatti nel 1240-43 e Federico II tratta con Papa Innocenzo IV, fra le altre cose tratta anche per ottenere la revoca della scomunica che il suo predecessore Papa Gregorio IX gli aveva inflitto. Per assurdo questa pacificazione provoca una rottura del legame tra l'imperatore e Viterbo, insomma Viterbo si era sentita un po' tradita, no, da questo accordo fatto col Papa. Fatto sta che proprio in quel frangente uno dei cardinali viterbesi, Raniero Capocci, approfittando della situazione, organizza una rivolta che costringe la guarnigione dell'imperatore alla resa e quindi è costretto ad abbandonare la città. Ma proprio queste lunghe guerre fratricide, dense di dolore e di morte tra le due fazioni, segnano non solo la storia di Viterbo, ma quella purtroppo di molte delle città italiane in quegli anni, all'interno delle quali molti parteggiano per l'una o l'altra parte, e accade purtroppo che famiglie intere si trovino impigliate in scontri acerrimi e lunghissime. Dopo aver dato uno sguardo a quegli anni, è doveroso anche per capire un po' il quadro storico, torniamo alla nostra Rosa, che abbiamo lasciato ancora piccola, intenta ai giochi di bimbe e all'insegnamento del terzo ordine francescano, attivissimo in città. Le notizie della sua infanzia non sono certissime, in quanto diciamo, la cultura popolare narra anche di episodi miracolosi. Viene per esempio scritto che la piccola a 3 anni riesce a ottenere il miracolo di far risuscitare una sua parente morta, oppure che tramuta i pani in rose colorate e odorose. Di certo sappiamo che nei 3 anni in cui Viterbo è sotto Federico II, quindi nel 40-43, i sudditi dell'imperatore spadroneggiano in città, lasciando che oltre ai sobillatori anche gli eretici patarini sconvolgano le coscienze di molti buoni cristiani che turbati dalle angherie, anche dalle arroganze e dai soprusi, non trovano più il coraggio neanche di professare la propria fede. Anzi, molti per timore aderiscono agli stessi eretici, oppure si schierano dalla parte dei ghibellini. Insomma, in quegli anni non c'è nessuno a Viterbo che possa trasmettere quella serenità, quel coraggio ai credenti, confermare soprattutto gli incerti, scuotere gli indifferenti e richiamare chi devia dal retto cammino. Il Signore cosa fa? Sorprende tutti, perché affida quest'opera di salvezza proprio a questa ragazza che sembra la meno adatta a fare questa missione, la strappa alla morte certa perché era molto ammalata con un miracolo per farne una sua intrepida apostola, ed è a questo punto che la vita di Santa Rosa si fa storia. Ora andiamo a prendere invece proprio i documenti ufficiali e ci sono infatti sulla sua vita, ci sono 2 lettere di Papa Innocenzo IV e anche una vita prima scritta nel 1252, era morta da 1 anno e mezzo, a cui si aggiungono anche altre fonti, alcune delle quali sono parte del processo di canonizzazione del 1457. Proprio questi documenti vengono redatti, dicevamo, dopo la morte di Santa Rosa. E qui, il 25 novembre del 1252, Papa Innocenzo IV, sia su richiesta del Vescovo, ma anche del clero, del Consiglio e del Popolo della città di Viterbo, indice il processo diocesano per accertare la santità della nostra Apostola. Incarica quindi il priore del convento di Santa Maria di raccogliere le testimonianze sulla vita anche sui miracoli che ha ottenuto Santa Rosa dal Signore, morta da poco. E proprio questi documenti, cioè questa indagine, è collegata ad uno dei frammenti in pergamena che si conserva nel monastero attuale a Viterbo, dove è riportato l'ultimo periodo dell'esistenza terrena della nostra santa. Lei, che allora è 17enne, e anche di alcuni miracoli operati in vita. E questo documento, cari amici, fornisce una narrazione vera e inizia con la malattia di cui parlavamo prima, mortale, in cui ella rischia la vita, e termina poi con il suo arrivo a Vitorchiano, come vedremo. E partiamo da un giorno preciso che è segnato, ed è martedì 21 giugno 1250, Rosa, che ha 17 anni, è gravemente ammalata, tanto che nessuno dei presenti al suo capezzale riesce più a dire una parola. I genitori, le vicine di casa, il sacerdote, attendono che spiri santamente come santamente è vissuta finora, dedita alle faccende domestiche, desiderosa di servire Dio nei fratelli, praticando quello che i frati di San Francesco le hanno suggerito, castità, povertà e obbedienza. Non è ancora in quel momento la missionaria che vedremo tra poco. Lei però, quel giorno, nello stato comatoso in cui riversa, inizia a vedere le anime di alcune persone che chiama per nome e che sono morte da 20-30 anni, che ella ovviamente non può conoscere. Conoscono però queste persone la madre e le signore che sono lì. Questo lungo elenco di anime che Rosa annovera tra i buoni e i cattivi continua fino al giorno successivo, cioè fino al mercoledì. Della notte del mercoledì 22 giugno, mentre la mamma con le altre donne che l'assistono ormai credono sia veramente, secondo loro era un delirio e quindi è arrivato l'ultimo momento, sempre la mamma Caterina prova a darle qualcosa da mangiare per darle un po' di sollievo, ma Rosa si rifiuta di prendere cibo, anzi, rivolgendosi a lei esclama: «Madre, non voglio mangiare perché domani sarà vigilia del beato Giovanni Battista». E qui succede il miracolo, che c'è. Tra lo stupore di tutti si alza e inizia con una lode unica a lodare il Signore per questo grande miracolo e la Vergine Maria. Anzi, prega tutti in quel momento di unirsi a lei affinché Dio stranamente cambi immediatamente indirizzo, conceda al re di Francia la potenza e la forza di aiutarlo a debellare l'Islam in Terra Santa. Ora, ci chiediamo come mai questa cosa. Apriamo anche qui una parentesi storica per capire il periodo. Qui negli anni precedenti, siamo nel 1228-29, l'imperatore Federico II conduce la Quinta Crociata, ma a causa di un'epidemia che lo colpisce l'anno prima è costretto, arrivato a Otranto, a fare ritorno in patria. Il nuovo Papa Gregorio IX giudica la malattia dell'imperatore un pretesto per sottrarsi all'impresa promessa e, come abbiamo già detto in precedenza, lo scomunica quell'anno, il 29 settembre 1227. Allora chi era scomunicato era praticamente come separato dal popolo, in questo caso, anche se era un imperatore, infatti avevano una paura terribile delle scomuniche. Ma lui, nonostante la scomunica, appena guarito riprende le preparazioni per la crociata. Qui vediamo proprio, si intrecciano le storie di dell'imperatore e anche di un altro re santo, perché è stato poi canonizzato, come vedremo, ma torniamo appunto a Federico II che, benché scomunicato, va in Terra Santa, ma per timore di essere sconfitto dal sultano d'Egitto Al-Kamil, conclude in quegli anni un accordo decennale che garantisce ai cristiani il possesso di Gerusalemme, Betlemme e Nazareth, nonché una fascia costiera, mentre ai musulmani viene riservata a Gerusalemme l'area del Tempio con la loro moschea. Questo accordo però dura pochi anni, perché nel 1244 Gerusalemme viene persa e definitivamente riconquistata dai musulmani. Dopo questa sonora sconfitta si erge a difensore dei luoghi santi un altro re, e il re Luigi IX il Santo, re di Francia, che conduce la sesta crociata contro l'Egitto, ed è proprio lui a cui Rosa si riferisce e dirige le sue preghiere. Dicevamo che il santo è stato infatti canonizzato, e vorrei fare anche un breve accenno a questo sovrano di Francia che nasce il 25 aprile 1214 a Poissy. Incoronato re si assume il compito di diffondere il Vangelo, e questo compito lo assume davanti a Dio e agli uomini in modo ufficiale. Nell'anno 1244, durante la crociata, viene però sorpreso da una fortissima febbre. Guarito, vuole guidare di persona la liberazione della Terra Santa e, sbarcato in Egitto presso la città di Damietta, attacca con successo i Saraceni. Quindi vince questa terribile battaglia, ma una pestilenza gli praticamente lo, lo, lo, gli decimò l'esercito, colpendo lui stesso. Qui, proprio durante questa grande epidemia, assalito nuovamente dai turchi, viene sconfitto e fatto prigioniero. Viene rilasciato dopo un riscatto e prosegue come pellegrino per la Terra Santa, dove compie molte opere di bene. Tornato poi in Francia, è un re che governa con giustizia e cristiana pietà, fondando anche la Sorbona. Ma tornando alla nostra santa, siamo al giovedì del 23 giugno 1250 e la vigilia della festa di San Giovanni Battista. Rosa, che fino a qualche giorno prima abbiamo visto agonizzante, ora è guarita. E guarita, vuole con tutto il cuore consacrarsi a Dio che le ha operato questo miracolo. E allora cosa fa? Il suo desiderio di essere, diciamo, totalmente del Signore, lo esprime anche fisicamente, quindi si prostra a terra in forma di croce e dice alla mamma di essere pronta a rinunciare e lasciare tutte le cose del mondo, a prendere l'abito di terziaria francescana che donna Sita, una delle vicine di casa, amica della mamma, ha già con sé, e le dice, questo riprendiamo tutto dal documento, madre, dice Santa Rosa alla mamma, voglio che donna Sita mi metta la tunica, mi cinga con un cordone i fianchi e mi tagli i capelli come ad un chierico. Alla perplessità delle due donne, Santa Rosa dice che è la stessa Vergine Maria a suggerirle di prendere proprio la tunica che Sita appese ai piedi del proprio letto in camera sua. Insomma, le donne sono, diciamo, sorprese, un po' sconcertate, no, da questa guarigione istantanea, da questo grande miracolo, e tutti si chiedono cosa fare. Alla fine la esaudiscono più per la gioia di vederla rifiorita che per vera convinzione. Allora, tra lo stupore e la gioia, sia la mamma che donna Sita obbediscono alle sue richieste, e lei, piena di ardore, di vitalità, con un cuore totalmente aperto a quello che è, diciamo, il desiderio del Signore, vuole che siano presenti anche le donne della contrada per rendere ufficiale, allora era importante questa cosa, la nuova vestizione da terziaria francescana, fatta solennemente in pubblico. E arriviamo al giorno dopo, che è il venerdì 24 giugno 1250, festa di San Giovanni Battista. Santa Rosa, vestita delle sue vesti più belle, si reca in processione, assistita dalle donne del quartiere, nella chiesa di Santa Maria in Poggio, e qui depone l'abito e gli ornamenti per indossare, come San Francesco, pubblicamente la tunica della penitenza francescana. È una ragazza che era già conosciuta prima, con una fede meravigliosa, una carità verso gli altri che conquista, e poi anche una luce particolare che risveglia talmente davvero tanti cuori, e la sua fama di santità si sparge presto in tutta la città, in tutto Viterbo e nei dintorni, e tutti accorrono a lei, e la piccola casa dei genitori è letteralmente presa d'assalto. Molti lo fanno anche per curiosità, e questo irrita papà Giovanni, che invita la figlia ad un comportamento più riservato, insomma, che non sia così esposto, ma lei non può più attendere. Ciò che il Signore vuole da lei è di fare la sua volontà, e il buon papà, felice forse più di avere di nuovo la figlia con sé, visto che stava per morire, che peraltro, accetta che ella segua la sua strada. E inizia da qui la vita pubblica di Rosa da Viterbo. Ottenuta proprio la benedizione dei genitori, dalle donne, sue vicine di casa, dal sacerdote che ha accompagnato la sua agonia, intraprende la missione che il Signore gli ha assegnato, quella di essere modello e apostola della città. Esce spesso di casa, seguita da altre donne che si uniscono a lei, e con una piccola croce attraversa la via di Viterbo, esortando alla conversione i propri concittadini. E ci vuole coraggio, cari amici, allora, perché innanzitutto perché c'era una guerra tra Guelfi e Ghibellini, quindi potete immaginare, lei rischiava letteralmente la vita in questo caso, ma anche perché una ragazza, ci voleva coraggio perché una ragazza allora potesse manifestare in modo così, così grande la propria fede, addirittura evangelizzare, visto che soprattutto allora il ruolo della donna era quello di accudire la famiglia, e la casa. Quindi in un certo senso era quasi scandaloso che una ragazzina come lei andasse così a evangelizzare nella città. Ma lei non si scoraggia, anzi, invita tutti a pregare, a recarsi in chiesa, a mettersi in ginocchio davanti al Signore, ad affidare a Lui le sorti di Viterbo, affinché, dice, il male e l'eresia non prendano il sopravvento degli animi, sia della città, ma anche del popolo cristiano. Possiamo dire veramente che è un'umile ancella del Signore, che si fa carico di quel triste periodo storico in cui vive, e senza paura, questo è fondamentale, senza paura sveglia e ammonisce anche, nonostante i suoi 17 anni, l'animo di tanti suoi concittadini. E si rivolge lei soprattutto alle donne della sua città, donne che a causa proprio di quest'odio fratricida, demoniaco, sono quelle che più soffrono per la perdita di padri, di mariti, di figli, e proprio come la Madonna sperimentano maggiormente, possiamo dire, il dolore di una madre ai piedi della croce. Come se non bastasse, in quegli anni, dicevamo, il mondo intero, almeno quello conosciuto, è sotto la minaccia dell'Islam. E lei invita tutto il popolo ad unirsi in preghiera perché torni la pace quanto prima. Quando accadono tutti questi fatti, dicevamo, lei ha appena 17 anni. Ha trascorso gli anni precedenti vivendo ritirata, dedita alla preghiera, al sacrificio, quasi una preparazione, no? Prima della missione. Ma lei di questa missione non sapeva comunque di metterla in pratica, cioè non se l'aspettava, però risponde. E si è preparata frequentando per esempio proprio la chiesa di San Francesco alla Rocca, ascoltando le omelie e i suggerimenti dei padri francescani. Ma ora inizia una vita più attiva di testimonianze, di evangelizzazione, e proprio dopo questa guarigione il Signore le chiede chiaramente di essere apostolo ovunque e non soltanto per gli abitanti di Viterbo. Ma qui, cari amici, c'è un altro problema e non da poco. Infatti, quando inizia la vita pubblica, diciamo così, a Viterbo, la città è sotto il governo di un podestà ghibellino, quindi naturalmente contrario al Papa e naturalmente anche quello che il Papa rappresenta, quindi anche la fede cattolica. E la predicazione di Santa Rosa, questa terziaria francescana, che sconcerta e confonde soprattutto i potenti lì della città, perché si chiedono, ma questa da dove, cioè come fa a evangelizzare? Ma quello che stupisce loro è che lei infiamma gli animi dei suoi concittadini. Quindi dice, questa non è una pazza, e sa benissimo quello che fa, perché la gente risponde, e questi cittadini cosa fanno? Oltre a essere svegliati nella fede, iniziano anche a schierarsi a favore del Papa, e quindi a rivedere anche il loro atteggiamento. Questo ovviamente a scapito della fazione ghibellina, che teme sia lei, ma soprattutto la folta schiera, che ormai è piuttosto cospicua, di tutte le persone che la seguono e che via via ella richiama a una via retta. Cosa succede? Un po' la fanno andare, poi arriva il giorno in cui il potestà convoca in udienza la sua famiglia. E si presenta solo la mamma Caterina, alla quale viene intimato chiaramente di lasciare insieme a tutta la famiglia subito la città di Viterbo, pena la confisca dei pochi terreni che hanno, della loro casetta, e di andare in esilio nel vicino comune di Soriano in Cimino, che era a diversi chilometri. La Caterina va a casa e racconta al marito quello che sta succedendo. Allora Giovanni, il papà di Santa Rosa, allarmatissimo, lui non era andato a quest'udienza, pensava fosse una cosa da poco, immediatamente supplica, va dal podestà per supplicarlo di annullare quest'ordine di esilio, almeno se non fosse possibile di rimandarlo alla primavera successiva. Infatti la neve in quel mese, caduta in abbondanza, ricopre tutte le montagne e le valli circostanti. Insomma, mettersi in viaggio in quei frangenti, allora bisognava andare a piedi, equivaleva a rischiare seriamente la vita. Ma il podestà gli risponde che non ci pensa proprio, non ne vuole sapere, è sempre più convinto di avere davanti a sé non una donna che professa la fede cristiana, la fede cattolica, ma un avversario politico. Per cui il modo migliore per disfarsene è proprio quello dell'esilio. E così, dice, almeno la facciamo finire subito questa cosa. E qui il 4 dicembre 1250 Santa Rosa con i genitori lascia la città e percorre diversi chilometri per andare verso questa nuova destinazione, attraversa gli aspricoli del Monte Cimino, poi pensate in inverno pieno allora, il fonde delle gelide valli, è un viaggio terribile fino ad arrivare nel nuovo comune di Soriano, questa cittadina, ma la sua fama, dicevamo, di santità ha già, diciamo, percorso, è andata oltre Viterbo, quindi ha percorso le valli, tutti i dintorni di Viterbo, e ad accoglierla in questa cittadina non sono persone sconosciute, anzi la attendono, quindi molti diventano amici, tante persone anche umili, povere, che vedono in lei una speranza anche per il proprio domani, è l'unica, sembra incredibile, ma è l'unica voce che cerca di dare quella serenità, quella speranza, quel desiderio di vivere, nonostante le grandi avversità, lei è l'unica voce, è incredibile ma è così. E quindi il Signore crea questa rosa, questo meraviglioso fiore, per aiutare tanti nostri fratelli che in quel momento vivono veramente nell'abbandono, nella povertà più completa, senza che nessuno si occupi di loro. Ma lei, proprio nella preghiera, capisce, il Signore gli fa capire che quell'esilio e quello della sua famiglia sarà di breve durata. E lei questo lo dice anche agli abitanti di Soriano, perché erano preoccupati per dare una buona casa, eccetera. Lei dice, non vi preoccupate. In effetti, lo stesso mese, alcuni giorni dopo, lei va via, quindi va in esilio il 4 dicembre. Il 13 dicembre, a Castel Fiorentino in Puglia, l'imperatore Federico II muore dopo una breve malattia. Anche questa morte è ancora oggi avvolta dal mistero. Cioè, chi lo dice morto per soffocamento, chi per malattia, chi lo crede morto scomunicato, chi lo vuole convertire. Insomma, sta di fatto che dopo la sua morte, Viterbo viene liberata, diciamo, dal suo esercito, dalla sua guarnigione, e riacquista la libertà dalla fazione ghibelline. Quindi sia Rosa che la sua famiglia possono tornare in quella che è la loro casettina dopo una decina di giorni. Sono passati 20 giorni, anzi, dalla loro partenza per Soriano. Soriano, pensate, questa cittadina conserva ancora oggi il passaggio di questa santa nella grotta che lei ha scelto come luogo di preghiera. Ancora oggi, dopo 7 secoli, pensate, gli abitanti di Soriano la chiamano la cella di Santa Rosa. E qui inizia e ritorna a casa, ma questo ritorno a casa, proprio perché è l'unica voce che dà speranza, che dà un alimento di vita, di gioia, è interrotto da diverse tappe. Infatti, proprio la santità e il coraggio dell'evangelizzazione di Rosa sono ormai conosciuti lì, ma anche nei comuni limitrofi, e tutti la vogliono conoscere. La famigliola quindi viene invitata e si ferma anche a Vitorchiano, un'altra cittadina dove gli abitanti la attendono trepidanti. Ella accetta l'ospitalità e usa la semplicità che le è consona, esorta anche quelli che non l'hanno ancora fatto ad abbandonare la via del peccato, a tornare a Dio, ai buoni costumi, alle sante virtù. Sta di fatto che numerose sono le conversioni e che il suo passaggio suscita tra gli abitanti, diciamo, ovunque si fermi, un fiorire di vocazioni e un ritornare alla fede e alla sana dottrina. Ecco, abbiamo visto prima che il suo desiderio però più profondo, che non aveva potuto mettere in atto perché c'era di mezzo, poi c'era stato l'esilio e quant'altro, era quello di consacrarsi totalmente a Gesù. E voi, forse per le modeste condizioni della famiglia, perché allora ci voleva una dote per entrare in convento, voi per la salute, oppure anche per la notorietà che la accompagnava ovunque, le suore non le permettono di entrare nel monastero di Santa Chiara, a Viterbo. La risposta della madre Badessa è: il numero delle monache è completo. Ma Rosa sa bene che i motivi sono altri. Ma quel giorno predice anche il momento in cui le suore saranno, dice così, saranno liete di avere da morta quella che disprezzano di avere da viva. Ed è una profezia che si avvererà a puntino proprio. Dopo il rifiuto del suo ingresso in convento, lei non si scoraggia naturalmente, anche se insomma, era profondamente dispiaciuta da questa cosa, però accetta la volontà del Signore, perché la vede come tale. E continua il suo cammino, diciamo, la sua vita di unione con Gesù nella preghiera in modo particolare, nella penitenza e anche nell'annuncio del Vangelo. E vive nascosta nella piccolissima cameretta della sua casa, preparandosi anche a raggiungere presto il cielo. Infatti si ammala di nuovo e è come se avesse completato la missione per la quale che il Signore gli ha dato. E qui infatti, dopo non molti mesi, anche per diciamo anche l'affaticamento che c'è stato, insomma, ha vissuto di molte traversie e muore così il 6 marzo del 1251. E la sua salma viene portata nel cimitero presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria in Poggio, non lontano da casa sua, ma il corpo non viene protetto da nessuna bara, ma adagiato sulla nuda terra, ricoperto solo da un telo all'interno di un umida fossa, e qui rimane circa 2 anni, sono 20 mesi per esattezza, assorbendo tutte le intemperie del periodo. Possiamo immaginare dopo 2 anni cosa resta. Gli abitanti di Viterbo però nel frattempo vanno sulla sua tomba e possiamo dire che proprio quelle zolle di terra che la ricoprono sono molto spesso bagnate dalle lacrime di chi si porta in quel luogo per chiedere la sua protezione, per ottenere una grazia, un miracolo. E quel luogo, segnato pensate solo da una croce, diviene presto meta di un pellegrinaggio sorprendente da parte di tutti i cittadini di Viterbo. Viterbo che considera ormai quest'umile figlia già santa. E questa devozione prende talmente consistenza che già a pochi mesi dalla sua morte ne viene richiesta la glorificazione. E dicevamo, nel novembre del 1252 Papa Innocenzo IV accoglie l'istanza del Vescovo e introduce il processo di canonizzazione, dando via alla raccolta delle testimonianze sulla sua vita e sui miracoli attribuiti alla sua intercessione. Ma il primo atto che sconcerta, quello del processo, è la ricognizione del corpo della nostra santa, che tolto dopo 2 anni, proprio alla nuda terra, quindi che assorbì, non era neanche in una bara, quindi possiamo immaginare, viene tolto alla terra e introdotto nella chiesa del cimitero di Santa Maria in Poggio, qui riposerà per 5 anni, il prodigio grande che la salma della giovane appare agli occhi del Papa, il Papa in quel momento è lì, a Viterbo, insieme a dei cardinali e alle persone che assistono, quel corpo sembra come se fosse morta poche ore prima. Il corpo è incorrotto. Non solo. Le varie membra di questo corpo sono anche flessibili. E così è un prodigio, nel senso che non è normale una cosa di questo tipo. Così, durante i 5 anni, quindi dal cimitero viene portata qui all'interno di Santa Maria in Poggio, durante questi 5 anni di permanenza nell'urna della chiesa di Santa Maria in Poggio, il culto di Santa Rosa assume dimensioni a dir poco enormi. Ora, come lei aveva predetto, le suore del convento in cui voleva passare la sua vita, abbiamo visto poco fa, ne reclamano addirittura la custodia e Papa Alessandro IV, accogliendo comunque le buone ragioni del monastero, decide di traslare nuovamente la salma, quindi nella chiesa annessa al convento. E questa traslazione all'interno del convento avviene il 4 settembre 1258. E proprio nell'anniversario di questa traslazione si celebra la festa principale della Santa nella città di Viterbo, di cui è patrona. E proprio la sua presenza, quella che lei aveva già diciamo anticipato da viva, dicendo appunto mi vorrete da morta, visto che oggi mi disprezzate mi vorrete poi da morta. In effetti da quel giorno, con l'ingresso di Santa Rosa nel monastero, il nome del monastero e quello diciamo delle Clarisse sono, possiamo dire, indissolubilmente legati l'uno all'altro da un affetto, possiamo dire, meraviglioso, tanto che nei secoli la casa religiosa è conosciuta solo come Monastero di Santa Rosa. e nel suo interno è compresa anche la casa di Santa Rosa. E qui dal 2015 ci sono le suore francescane alcantarine che custodiscono questo luogo santo, suore che cercano ogni giorno anche di imitare le grandi virtù della giovane santa, dedicando la loro giornata alla preghiera e al lavoro, anche alla formazione di tante persone, di tanti giovani. Ma soprattutto le porte di questo monastero sono sempre aperte a quante sentono come Rosa l'invito del Signore. E a distanza di 700 anni vediamo come questo messaggio sia ancora vivo. Lo dicevo all'inizio, a quanti di noi si chiedono cosa un'umile fanciulla del 1200 possa insegnare a noi, uomini e donne di oggi, rispondo portando proprio uno tra gli esempi più prolifici, scaturiti proprio dalla venerazione per questa piccola santa, piccola ma grande santa. E riprendo le parole di Papa Pio XII, parole che sono scolpite sulla lapide del sepolcro di Mario Fani. Mario Fani è il fondatore, insieme a Giovanni Acquaderni, dell'Azione Cattolica Italiana, pensate. E queste parole di Papa Pio XII sulla tomba di Mario Fani sono queste. Nel 1868, in una notte di preghiera nella chiesa di Santa Rosa a Viterbo, spuntò dal cuore di Mario Fani il primo fra i rami che oggi potrebbero meglio chiamarsi la prima radice del robusto tronco dell'Azione Cattolica Unitaria. In effetti, cari amici, questo santo giovane, anch'esso viterbese di 23 anni, proprio in quella chiesa di Santa Rosa ebbe l'intuizione di iniziare quest'opera destinata a sfidare i secoli, e proprio accanto alla nostra piccola santa che per Mario Fani ha rappresentato un modello di virtù e anche di zelo apostolico. Mario, ispirandosi alle vicende della vita di questa santa, dà inizio a quella che diventerà, dicevamo, l'Azione Cattolica, che vuole essere una palestra di formazione e di evangelizzazione. Attenzione però, in un'epoca, siamo infatti nella seconda metà dell'Ottocento, in pieno risorgimento, in cui il potere temporale del Papa sta tramontando, tra lo smarrimento dei cattolici e tra le rivendicazioni contro la Chiesa anticlericali dei pensatori del tempo. E proprio l'ispirazione di Fani nel corso della storia si è rivelata profetica. Infatti, come nel periodo in cui ha operato Santa Rosa, anche il giovane Mario Fani avverte l'esigenza della formazione. Lui scrive: «La formazione alla carità verso i giovani», scrive Mario Fani, «che dalle audacie della rivoluzione si trovano impediti perfino di mostrarsi cristiani», ci ricorda Santa Rosa allora, «oppure vengono illusi da essa, addormentati e poi portati a perdizione da quell'empia setta che si chiama massoneria». Allora, questo è uno dei pochi scritti che ci ha lasciato questo giovane, morto da appena 24 anni di polmonite, dopo aver salvato un uomo dall'annegamento. Ma parliamo ancora dell'attualità di Santa Rosa oggi, ricordando un'altra figura femminile, ancora più vicina ai nostri giorni. Parlo della venerabile Armida Barelli, fondatrice, nei primi anni del 1900, della Gioventù Femminile, che è un ramo dell'Azione Cattolica Italiana. La Barelli, Armida, proprio seguendo l'esempio di Santa Rosa, che ella stessa la definisce così, giovane, donna, laica e propagandista, evangelizzatrice, dapprima nella sua diocesi di Milano, andando poi di parrocchia in parrocchia, cerca di convincere i sacerdoti della necessità di coinvolgere le giovani donne nella vita della Chiesa. E i successi non tardano ad arrivare e giungono perfino a Papa Benedetto XV. È proprio la stessa venerabile Armida Barelli a ricordare, proprio come recandosi in pellegrinaggio a Viterbo, l'era di Milano, abbia chiesto aiuto e ispirazione a Santa Rosa. E poi ha chiesto il permesso al Sommo Pontefice di mettere proprio sotto la protezione della Santa la nascita della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. E in effetti nel 1922 Benedetto XV proclama Rosa da Viterbo patrona della Gioventù Femminile di Azione Cattolica. E lei, questa venerabile, è sempre rimasta fedele a questa figura, profondamente devota. Spesso si ritirava in preghiera presso il santuario, ospite delle suore, che il 15 settembre del 1922 offre a Santa Rosa, durante un pellegrinaggio nazionale a Viterbo, un cuore d'argento come ringraziamento per l'intercessione che questa santa aveva avuto verso di lei, verso quello che dal suo cuore era nato, diciamo, questa gioventù femminile di Azione Cattolica. Voglio anche ricordare che il 4 settembre, dicevamo, la grande festa di Viterbo, perché si festeggia Santa Rosa, è anche il giorno della sua traslazione ed è la vera festa per tutti i viterbesi celebrata da secoli. E qui la sera della vigilia, cioè il 3 di settembre, la sera dalle 21 in poi, c'è anche il trasporto famosissimo della macchina di Santa Rosa. Sono passati tanti secoli e nel frattempo i viterbesi hanno costruito varie macchine di Santa Rosa, ogni anno più belle, e la vigilia, appunto, dicevamo, la portano in processione per le strade della città per ricordare proprio la traslazione. E questa macchina, che è enorme, adesso ve la spiego, è trasportata da un centinaio, si chiamano facchini di Santa Rosa, che con perizia a braccia nude si fanno carico, pensate, di una costruzione alta più di 30 metri e dal peso di oltre 5 tonnellate. Cioè, è una cosa veramente incredibile. È una macchina sfavillante di luci e di colori, con all'apice l'immagine della Santa di Viterbo che sovrasta la città, come per proteggerla. È talmente particolare questa costruzione che dal 2013, pensate, anche l'UNESCO ha riconosciuto il trasporto della macchina in onore di Santa Rosa come patrimonio orale e immateriale dell'umanità. Ma vorrei concludere la nostra trasmissione tornando a un giorno particolarissimo, che penso ci farà piacere ascoltare. È la domenica sera del 27 maggio del 1984, quindi siamo vicini a noi, quando quel giorno, in omaggio a Papa Wojtyła, che era affacciato alla finestra storica del Palazzo dei Priori, Papa Wojtyła, alla vista di questo baldacchino trionfale, lo portano il 3 di settembre, ma in omaggio al Papa, quel giorno, quella sera l'hanno portato, questo baldacchino che si innalza, dicevamo, al di sopra dei tetti di Viterbo, con la statua della Santa e illuminato da fiaccole trasportato in spalla, il Papa, sorpreso ed emozionato, pronuncia questo breve discorso e dice così: voi viterbesi siete abituati a questo spettacolo della macchina, ma per me si è trattato di una circostanza unica. Questa vostra concittadina, voglio dirvi che valeva la pena di essere una rosa Viterbo, perché avendo lei capito la novità di Cristo, è diventata santa e si trova nella comunione dei santi, nella visione della Santissima Trinità in cielo. E qui sulla terra, dice Papa Wojtyła, ha una sua macchina stupenda e regna dalla cima di questa stupenda macchina di Santa Rosa. Carissimi, io devo ringraziare voi di questa generazione, ma anche le generazioni precedenti che hanno inventato questa macchina, che leva agli onori del cielo la vostra Santa Rosa da Viterbo. Devo ringraziare questi uomini forti, questi uomini coraggiosi, che sanno portare sulle loro spalle una macchina che sale fino al cielo. Vi ringrazio, dice San Giovanni Paolo II, per il vostro sforzo. Vi ringrazio per la vostra fedeltà a questa bellissima tradizione che rende tanto originale la vostra città e la vostra Chiesa. E conclude: conservate questa originalità, è piena di significato. Vorrei ancora dire, valeva la pena per un Papa venire a Viterbo, valeva la pena venire a Viterbo per vivere questa giornata così piena, così ricca della storia del passato, ma anche così ricca di giovinezza e così completa, grazie a questa macchina di Santa Rosa. Grazie per questa nuova esperienza della mia vita.